Per esempio, voi le foto che avete sullo smartphone o sull'iPhone le trasferite sul TV? Su un disco fisso e poi dopo si vede in TV. In che modo? Senza fili? No, fili, col cavetto. Quindi niente AirPlay? No, sono che... Lo fa con il Bluetooth. Lo metto col cavetto. Quindi, per esempio, lei non fa caso se acquista prodotti che hanno la certificazione DLNA? No, non mi ha fatto caso, sinceramente. Perché in realtà la maggior parte anche di questi TV hanno questa possibilità. Non sapevo neanche che c'era. Il problema di costi c'è, comunque si ha per una televisione del genere, insomma.